Holy shit, Roth. Na, na, se kell lehetni. Thank you. Thank you. Thank you. Io mi ho comprato, se ne che baroni fa appunto da drumot, li vuole? E ne sa ritomma altro con me. Thank you. Thank you. Jó, figyelj, hogy mit tesz.